Parte del plus lavoro per mezzi di produzione e sussistenza. Parte del plus lavoro per mezzi di produzione e sussistenza. Accumulazione e riproduzione del capitale progressiva. Accumulazione e riproduzione del capitale progressiva. Il capitalista ha solo interesse nel continuo valore di scambio. Il capitalista ha solo interesse nel continuo valore di scambio. Il karma ironico del capitalista godere e accumulare. Il karma ironico del capitalista godere e accumulare. Tendenza costante del capitale a passare il salario zero. Tendenza costante del capitale a passare il salario zero. Scienza e tecnica espandono il capitale, scienza e tecnica espandono il capitale. Il capitale non è grandezza, ma parte elastica della ricchezza sociale. Il capitale non è grandezza, ma parte elastica della ricchezza sociale.